24 mattino. L'Italia si desta. 28 dicembre 2012, a pochi giorni dalla fine dell'anno, 24 mattina torna con voi per l'ultima volta con Gianfranco Fabi ai microfoni, e poi tornerà a Milan l'anno prossimo sicuramente. E quindi, passando appunto il testimone ad Alessandro Milan, concludiamo un po' quest'ultima puntata dell'ultima settimana, anzi della penultima, la prossima sarà a metà tra il 2012 e il 2013, dell'ultima settimana del 2012, ecco, parlando appunto degli argomenti, del giorno, e in primo piano sui giornali e la politica. Ne parleremo anche nella seconda parte del nostro 24 mattina, dalle 8:15 alle 9. Ne parleremo vedendo un po' il ruolo dei sondaggi, vedendo un po' il ruolo anche dei politologi, che cosa vedono e prevedono in questa fase politica che negli ultimi tempi è sicuramente ha sicuramente presentato molte sorprese. Solamente un mese fa si pensava a uno scontro tra la sinistra di Bersani e una destra condotta da Alfano, con un Berlusconi che sembrava doversi essersi ritirato definitivamente, e adesso ci troviamo in uno scenario completamente diverso, in cui non solo Berlusconi è tornato in campo, ma è anche salito in politica Mario Monti, creando una nuova forza che sicuramente scompagina quello che poteva essere una politica bipolare, di bipolarismo e di un'alternanza che sembrava scritta nei fatti e nelle cose. E adesso il futuro è certamente più incerto, ma anche più interessante, con fatti nuovi. E i fatti nuovi di oggi sul fronte dei quotidiani sono soprattutto due, direi: il fatto che il Vaticano, l'Osservatore Romano, ieri abbia espresso parole di elogio per Mario Monti, il titolo del Messaggero è per esempio "Monti sostiene il Vaticano". Un altro titolo è dedicato ai magistrati in politica, per esempio con Grasso, procuratore antimafia, che ha scelto il pensionamento anticipato e si è alleato, entrerà nelle liste del Partito Democratico. Sono questi due i temi principali di oggi, a cui si affianca la polemica sulle comparsate televisive di Silvio Berlusconi, che nelle ultime settimane ha praticamente ogni giorno occupato uno spazio sulle televisioni pubblica, ma anche sulle sue televisioni di Mediaset. Ecco, interessante una vignetta di Gianelli, la solita vignetta di Gianelli sul Corriere, dove Rai 1 c'è un Berlusconi, Rai 2 due Berlusconi, Rai 3 tre Berlusconi, Rai 4 e Rai 5, immaginate quanti Berlusconi. E va ora in onda sul canale invece Rai Storia la par condicio, con un dimesso Bersani che dice va in onda appunto la par condicio nel canale Rai Storia. E anche su questo c'è appunto un approfondimento da parte dei quotidiani, con qualche polemica relativa. Ma vediamo un po' le prime pagine dei giornali, dove la politica estera compare in qualche testata, soprattutto ricordando i problemi americani, i problemi del fiscal cliff, del baratro fiscale che si preannuncia se non si raggiungerà un accordo al Congresso americano entro il 31 dicembre, con tagli automatici delle spese e riduzioni delle detrazioni fiscali appunto dal 1 gennaio. E su questo molti giornali si soffermano con analisi e commenti. Guardiamo appunto, vi dicevo, le prime pagine. Il Messaggero: Monti, il sostegno del Vaticano. L'Osservatore: da lui impegno nobile, Berlusconi sale in politica perché di rango inferiore. Il PD candida il procuratore Grasso, sarà avanti in groia la toga D'Ambrosio con i centristi. Quindi una discesa in campo dei magistrati in maniera appunto attraverso il procuratore Grasso. Poi non si parla di ingroia, se ne era parlato nei giorni scorsi, che dovrebbe entrare nelle liste invece della sinistra di Vendola. L'editoriale del Messaggero è di Piero Alberto Capotosti: così l'agenda scompagina l'eterna rissa italiana, un po' sull'ottica che vi dicevo del fatto che bisognerà vedere se il tradizionale bipolarismo verrà appunto superato e cambiato dall'ingresso appunto nell'agone politico della compagine centrista, lista unica si dice, di Mario Monti. Il Sole 24 Ore, mercati e corsa ai bot, il tesoro colloca titoli semestrali per 8,5 miliardi, tassi in lieve rialzo allo 0,949%, quindi il titolo principale del Sole 24 Ore è dedicato alla, diciamo, ai riflessi finanziari della situazione politica, una situazione politica che presenta appunto il fatto che ci sono sicuramente meno tensioni sul fronte finanziario, che quindi è anche più facile per il Tesoro collocare i propri titoli di Stato. Un titolo grosso, importante sul Sole 24 Ore è anche quello di un rapporto Confindustria sul Mezzogiorno. Il Sud ha perso 24 miliardi di PIL, di prodotto interno lordo, e con 330 mila posti in meno. Riparte l'export, la terza, che è responsabile della Confindustria per il Mezzogiorno, per i fondi europei puntare su impresa e lavoro. Quindi questo rapporto Confindustria, un rapporto direi drammatico nella sua analisi, mette in luce come il Sud resti ancora uno dei problemi principali dell'economia italiana. In fondo il problema sia dell'occupazione sia del reddito è particolarmente forte nel Mezzogiorno. Anche sul Sole 24 Ore un richiamo al fiscal cliff americano con un editoriale di Mario Margiocco, ma così come il Sole 24 Ore, direi un po' sorpresa, anche Libero dedica il suo titolo ai titoli di Stato e allo spread, con un articolo di Franco Bechis, il titolo principale, che dice: nel 2013 scenderà, come guadagnare con lo spread. Le previsioni degli analisti danno il differenziale BTP Bund in netto calo, ecco cosa devono fare famiglie e imprese per sfruttare la nuova situazione. E Franco Bechis su Libero appunto spiega che ne trarranno benefici di questa discesa dello spread, che è ovviamente legata anche al clima politico e quindi in qualche modo sarà legata anche al risultato delle elezioni, però complessivamente il sistema finanziario europeo ha dimostrato di essere sostenibile, rispettato in questo 2012 impegni molto pesanti, quindi nel 2013 si prevede che possano esserci degli ulteriori allentamenti sul fronte delle tensioni sui tassi, e le famiglie e le imprese potranno sicuramente giovarne con un credito sicuramente meno caro e forse anche un po' più facile. Il Foglio dedica il suo piccolo titolo di apertura al Vaticano, vota Monti, ma i cattolici lo vogliono alternativo a Bersani, movimenti e forum si aspettano un professore ratzingeriano e più vicino al Partito Popolare Europeo, mai con Vendola e la CGIL, è il commento del Foglio. Poi il Corriere della Sera, magistrati, candidati, un caso, Grasso va con il PD, la RAI contro il leader PDL, troppo in TV, Monti tratta per la lista unica, il Vaticano lo appoggia, vuole una politica alta e nobile. Sul Corriere della Sera, ne parleremo più avanti, un articolo di Vittorio Messori sull'emergenza ignorata dei cristiani perseguitati, la notizia dell'accordo tra Silvio Berlusconi e la sua ormai ex moglie Veronica, 3 milioni al mese verranno passati da Berlusconi a Veronica, e il patrimonio tuttavia resta a Silvio Berlusconi. Ma l'editoriale del Corriere della Sera è di Angelo Panebianco ed è un editoriale dedicato alla politica, ciò che unisce Berlusconi e Bersani, e lo vedremo poi nella seconda parte, è un editoriale appunto dedicato al fatto che sia in fondo Bersani sia Berlusconi hanno adesso un comune, diciamo così, non tanto nemico, forse nemico più per Berlusconi che per Bersani, ma comunque qualcuno contro cui devono lottare, che devono sperare appunto di strappare voti soprattutto alla nuova formazione di Mario Monti. Liberate la TV da Berlusconi, il titolo dell'Unità, Rai e Vigilanza corrono ai ripari, lista unica per Monti, resistenze al centro, l'Unità dà conto anche di Grasso in lista col PD che lascia la magistratura. natura. Sul tema dell'appoggio del Vaticano a Monti è molto duro il giornale, il Vaticano si schiera col Premier, vendono il Papa a Monti per 17 milioni, dalla finanziaria soldi agli amici del cardinale Bertone e Bagnasco e loro restituiscono il favore, ed è un titolo che si basa su un editoriale di Vittorio Feltri in cui Feltri dice che la Chiesa conta meno di un tempo, non è, le chiese sono meno affollate, le prediche dei parroci sono meno ascoltate, e Feltri conclude appunto il suo editoriale con questo velenoso, un po' con questa velenosa osservazione: il professore ha compiuto un miracolo, scrive Vittorio Feltri, l'ospedale Gaslini di Genova che sta a cuore ad Angelo Bagnasco e l'ospedale Bambin Gesù di Roma che sta a cuore a Narciso Bertone hanno ricevuto dal Pio Governo Monti in articolo mortis un finanziamento rispettivamente di 5 e 12 milioni di euro. Incoraggiante, conclude Vittorio Feltri, forse dovrebbe dire Vittorio Feltri che sono stati molti finanziamenti dati a istituzioni nell'ultima parte della legislatura, non solo a quelle che forse fanno piacere al Vaticano. La Repubblica, anche Repubblica, dedica a questo tema il suo titolo principale: il Vaticano benedice Monti, nobile il suo impegno. E Berlusconi lo attacca, politico di rango inferiore, lista unica, primi dubbi dei centristi, polemica sulla discesa in campo dei magistrati. La Repubblica ha un editoriale di Giovanni Valentini, il golpe televisivo dedicato appunto alla presenza degli ultimi giorni molto intensa di Silvio Berlusconi sulle reti, soprattutto pubbliche. Anche La Stampa ha un titolo principale: appoggio del Vaticano a Monti, magistrati in campo, Grasso nel PD, D'Ambrosio nel centro, critiche dal PDL. E c'è un commento di Massimo Grabellini nel suo Buongiorno dedicato appunto ai magistrati: i magistrati in Parlamento non mi scandalizzano, scrive Grabellini, mi scandalizzano di più i condannati, solo in Italia c'è bisogno di una legge per vietare ai birboni di candidarsi, altrove non troverebbero elettori disposti a votarli. Semmai il problema del magistrato è quello del buon ginnasta, l'atterraggio al termine dell'esercizio. Finita l'esperienza politica, è lecito che riprenda a giudicare, si chiede Massimo Grabellini sulla Stampa. Un avvocato è di parte per antonomasia, il magistrato no. Dopo aver militato in uno schieramento parlamentare non può tornare al suo mestiere precedente come un professionista o un imprenditore. Bene ha fatto Grasso a non chiedere l'aspettativa ma il pensionamento anticipato. Un gesto che suona quasi come una denuncia silenziosa di coloro che non l'hanno compiuto. Questo era Massimo Grabellini, sempre pungente nel suo Buongiorno quotidiano sulla la Stampa. L'offensiva televisiva, la presenza televisiva di Silvio Berlusconi è dedicato anche il titolo principale di Avvenire, la mossa di Bersani che ha il ruolo di procuratore Grasso, PD, Rai occupata. Viale Mazzini, spazio ad altri leader per riequilibrare, controffensiva TV. Monti, spiego il programma agli italiani, è polemica su Berlusconi che dilaga. E l'editoriale di Avvenire è dedicato alle difficoltà, ai massacri dei cristiani nel mondo di Riccardo Redaelli, lo vedremo nella seconda parte. Per concludere questa prima parte, un occhio al secolo XIX, per Monti la benedizione del Vaticano, l'osservatore romano, nobilita la politica, Bersani si gioca l'anti-ingroia e candida il PM antimafia Grasso. Quindi tra il Vaticano e Grasso il tema appunto delle elezioni, delle prossime elezioni, della politica, degli appoggi e delle candidature domina sulle prime pagine dei giornali, sia su Avvenire sia sul Corriere della Sera. Vi avevo segnalato due titoli su un'emergenza dimenticata come un'emergenza ignorata, come dice il titolo del Corriere della Sera sull'articolo di Vittorio Messori, che è quella dei cristiani perseguitati. Inizierei da Avvenire: ciò che viene dissipato è un racconto in pratica di Riccardo Redaelli da Quetta, una città del Pakistan, è solo l'ultimo anello di una spaventosa catena di violenza, scrive Riccardo Redaelli. Anzi, mentre scrivo, altri cristiani saranno già stati uccisi in qualche parte del mondo, secondo le terribili statistiche delle vittime dell'odio religioso. Ma mi colpisce il luogo in cui è stata uccisa due giorni fa una giovane cristiana pakistana, Quetta, la capitale del Beluchistan pakistano, città pakistana quasi sconosciuta, vicino alla frontiera con l'Afghanistan, il cui nome in TV viene spesso storpiato. È ascesa in questi anni a una triste notorietà perché ospiterebbe da tempo Mullah Omar, il capo storico dei talebani. Una città ormai pressoché preclusa agli occidentali. Eppure, fino a una dozzina d'anni fa, era una delle città più visibili del Pakistan. Ricordo i lunghi soggiorni trascorsi laggiù lungo tutto un decennio, ospite di un convento di suore di San Giuseppe. Il cancello di ferro era spesso chiuso, ma solo per evitare che i bambini della loro scuola corressero in strada. In realtà, chiunque poteva entrare. Una vecchia suora accoglieva arcigni e ritardatari, uomini giunti in ritardo per via del traffico, che si facevano piccoli mentre venivano redarguiti per aver accompagnato tardi i loro figli. Dall'altra parte della via, oltre la cortina dei pini, la grande scuola media, ambita da tutte le famiglie di Chetà. Poco lontano, la chiesa, isole di cristianità del mare dell'Isman, che vivevano con tranquillità, senza protezione, scorte e minacce. E ancora più avanti, quel mondo lotta da anni con cosciente fatica, scrive Riccardo Redaelli su Avvenire, per rimanere fedele alla sua storia di comunità aperta. Molti religiosi occidentali sono stati rimpatriati, blocchi di cemento e strade presidiate indicano spesso in Pakistan la presenza di chiese e scuole cristiane. Alla violenza criminale dei fanatici si associa l'ambiguità meschina e pavida di quasi tutte le forze politiche e del governo di Islamabad. E quindi le difficoltà e anche il martirio dei cristiani in Pakistan viene ricordato anche di Vittorio Messori, non solo in Pakistan ma anche in molti altri luoghi del mondo. Vittorio Messori sul Corriere della Sera pochi giorni fa, il sociologo Massimo Introvigne, oggi responsabile dell'Osservatorio della Libertà Religiosa del Ministero degli Esteri, ha ricordato dai microfoni di Radio Vaticana che quest'anno sono stati 105.000, uno ogni 5 minuti, i cristiani di ogni confessione uccisi nel mondo per la loro fede. Introvigne ha spiegato anche che la persecuzione dei cristiani è oggi la prima emergenza mondiale in materia di violenza e discriminazione religiosa. E scrive Vittorio Messori, oggi è il Papa storicamente solo a denunciare la mancanza di libertà religiosa, difendendo non solo i cristiani ma i credenti in qualunque fede. Questa libertà, ripetuta anche di recente Benedetto XVI, seguendo le orme del suo predecessore, non riguarda certo ogni cristiano ma ogni uomo. È un diritto che va riconosciuto come diritto naturale, quale che sia la propria prospettiva religiosa. Il Papa ha ricordato che molti paesi, soprattutto musulmani, si difendono dalle accuse sostenendo che da loro è riconosciuta libertà di culto. Ma libertà vera non c'è, replica Benedetto XVI, quando ai cristiani è permesso soltanto di celebrare le loro liturgie nel chiuso delle chiese, e in Arabia Saudita anche questo è proibito, mentre è rigorosamente vietato manifestare in pubblico la propria fede. Non c'è libertà quando mostrare una croce sul tetto di una chiesa o appesa a una collanina significa essere aggrediti e spesso arrestati. Non c'è di certo libertà quando si arriva addirittura alla pena di morte per coloro che scegliessero il battesimo in contrasto con la religione di Stato. Tre, scrive Vittorio Messori sul Corriere della Sera, sono oggi gli ambienti principali di persecuzione. Vi è quanto resta di comunismo in Cina, dove la sola militanza a stento tollerata è quella nella Chiesa patriottica, cioè creata e sorvegliata dal regime. Nella Corea del Nord, che stando agli osservatori è probabilmente in assoluto il luogo dove è più pericoloso dirsi cristiani. E a Cuba, dove il castrismo ormai moribondo alterna momenti di tolleranza e di intolleranza. Un'emergenza dimenticata, questa è il richiamo appunto di Vittorio Messori sulla persecuzione verso i cristiani in molte parti del mondo, con questa tra l'altro rinascita dell'integralismo islamico che in molti paesi sta crescendo e sta imponendo le proprie leggi che non permettono appunto la libera espressione di quanti hanno delle diverse opinioni o dei diversi credi religiosi. Ma torniamo alla politica, torniamo ai nostri problemi, che sono sicuramente problemi rilevanti. Abbiamo di fronte due mesi di campagna elettorale e vi sottolineavo già nella prima parte l'articolo di Angelo Panebianco sul Corriere della Sera, un articolo che sottolinea come vi siano appunto interessi convergenti, quasi a sorpresa potremmo dire, hanno gli stessi interessi Bersani e Berlusconi. Scrive Angelo Panebianco: Pierluigi Bersani e Silvio Berlusconi non avrebbero mai potuto immaginare ancora qualche settimana fa che in questa campagna elettorale i loro interessi sarebbero stati di fatto convergenti. Essi hanno un interesse in comune: fare fuori il centro, e forse le scelte di Monti hanno finito per favorire questa oggettiva convergenza di interessi. Come nel caso del carnevale di Viareggio, scrive Angelo Panebianco, le elezioni italiane sono sempre a tema. Il tema di quest'anno è il seguente: riuscirà il centro-sinistra a ottenere la maggioranza oltre che alla Camera anche al Senato? Se ci riuscirà riuscirà, potrà eventualmente aprire al centro, ho detto nell'antico linguaggio resuscitato da Bersani e così rivelatore di storia e provenienze, fare l'alleanza tra progressisti e moderati, ma lo farà forte della propria vittoria, altrimenti sarà costretto a trattare con il centro montiano da una posizione di debolezza. Dunque l'interesse di Bersani è battere il centro, è evidente. Ma prosegue Angelo Panebianco sul Corriere della Sera, qual è l'interesse di Berlusconi? È identico a quello di Bersani. Berlusconi, cui sono venuti meno, sono venute a mancare appoggi cruciali dalla Chiesa agli imprenditori, sa che non potrà vincere, ma sa anche che, essendo la formidabile macchina da guerra elettorale che è, a qualche possibilità di rimontare la china dei sondaggi e ottenere alla fine un buon piazzamento, quantomeno un piazzamento sufficiente per sconfiggere il centro. Non lo confesserebbe mai, ma anche a Berlusconi conviene a questo punto che Bersani stravinca, che conquisti Camera e Senato, perché in tal caso il centro sarebbe finito, distrutto, fuori dai giochi. E Berlusconi, e ancora Angelo Panebianco sul Corriere della Sera, resterebbe in piedi come l'unico vero oppositore del centro-sinistra. La convergenza di interessi sta in questo. Sia a Bersani che a Berlusconi conviene che quest'ultimo rimonti almeno un po', quanto basti per mettere fuori gioco Monti e i centristi. Ecco, questa è una, era Angelo Panebianco sul Corriere della Sera, una delle novità appunto di questa campagna elettorale, novità imprevista rispetto a quanto si pensava solamente un mese fa, di un tradizionale scontro tra destra e sinistra. Invece c'è questo nuovo fatto che sicuramente cambia le regole del gioco, e lo stesso tipo di commento, pur se una prospettiva diversa, viene da Piero Alberto Capotosti sul Messaggero. Così l'agenda scompagina l'eterna rissa, e infatti Piero Alberto Capotosti sottolinea appunto la novità di questa terza forza, di come sconvolge gli equilibri tradizionali, e appunto ricorda l'affannosa ricerca dei gruppi politici di ampliare e rafforzare i rispettivi poli elettorali che tradizionalmente si contrappongono alla scontata linea destra-sinistra. Questo schema, scrive Capotosti, non è necessariamente l'unico praticabile, ma quando nelle elezioni politiche del 94 Martinazzoli tentò con il Partito Popolare di opporsi a questo tipo di partizione bipolare, fu travolto dal duello tra Berlusconi e Occhetto. Si dirà che erano altri tempi, altre condizioni politiche, ma bisogna comunque scontare una certa resistenza e titubanza dei vertici di partito ad abbandonare certe tradizionali e comode posizioni pseudo-ideologiche di destra e di sinistra per mettersi a navigare nel mare aperto dei confronti e delle contrapposizioni programmatiche. Anche perché, ancora Piero Alberto Capotosti sul Messaggero, cadute a partire dagli anni 70 le grandi ideologie che rappresentavano veramente un fattore dirimente nelle scelte elettorali, i programmi delle grandi forze politiche non servono a presentare più, per la generale sottovalutazione del momento contenutistico, significative posizioni identitarie, al di là di qualche punto, per così dire, di bandiera. E quindi per Piero Alberto Capotosti anche il tradizionale confronto destra e sinistra ha perso un po' di contenuti. E sul rebus dell'agenda, sul fatto appunto che non c'è un tema di fondo che è quello dell'Europa, ma non ancora un partito, si sofferma Stefano Folli nel suo tradizionale commento, il punto sul Sole 24 Ore. Ne leggiamo la conclusione. È vero, come ricorda D'Alema, che i sondaggi danno il PD saldamente in testa, presso oltre il 30% dei consensi, ma non è vero che l'opzione Monti sia irrilevante, quasi una distrazione della politica. Al contrario, essa può diventare molto dolorosa per il PD, a patto, si capisce, che si sciolgano i nodi irrisolti intorno al Premier, il quale non potrà rinunciare a una lista di riferimento che sia realmente innovativa nelle persone e nel messaggio. Una lista magari federata ai centristi tradizionali, ma capace di interpretare la novità. Si potrebbe dire che Monti, sostiene appunto Stefano Folli sul Sole 24 Ore, ha afferrato il tema, l'Europa, ma hanno ancora dietro di sé un partito adeguato a sorreggere un'ambizione politica molto alta. E poi, naturalmente, egli stesso deve trovare le forze comunicative più adatte a farsi capire dalla grande massa degli elettori. Non sarà semplice, però il terreno della sfida è delineato, e non è un caso perché Bersani cerchi spazi su altri versanti, ad esempio candidando il procuratore antimafia Grasso, il che, per la verità, suscita più polemiche che consensi. Un altro segnale di quanto la campagna, questa campagna elettorale, sarà complessa. Quindi la complessità e il cambiamento in fondo di prospettiva della campagna elettorale viene sottolineato un po' da tutti i giornali, in cui appunto elementi nuovi quasi a sorpresa si susseguono di giorno in giorno. Vi ricordavo appunto come per esempio questo tema dell'appoggio dell'Osservatore Romano a Monti sia stato una delle novità, anche per il fatto che è stato un appoggio molto esplicito, e appunto lo sottolinea il Foglio nel suo articolo di apertura della prima pagina: l'endorsement dell'Osservatore Romano per Monti, che vuole recuperare il senso più alto e più nobile della politica, dice che oltre Tevere sono arrivate garanzie precise. L'azione futura di Mario Monti non romperà sui principi cosiddetti non negoziabili, vita, famiglia, educazione, e insieme non andrà a intaccare quanto acquisito dai patti lateranensi, che tradotto significa due cose: non sarà Monti a scendere a compromessi con la sinistra populista e antagonista, non sarà lui a intaccare gli accordi bilaterali della Chiesa con lo Stato italiano, con tutti i rispettivi impegni finanziari che comportano. Monti ha mantenuto questa politica nei mesi di governo tecnico e così farà in futuro, sottolinea appunto il Foglio nel suo articolo di apertura. Diamo qualche curiosità. Per esempio, su Pubblico, il giornale di Luca Terese, c'è un'intervista con Galbraith, ecco, non con John Kenneth Galbraith, il grande economista che, pur non avendo mai vinto il premio Nobel, comunque rimane tra gli economisti del Novecento uno dei più lucidi, uno dei più di quelli che avevano maggiore capacità appunto di spiegare i dati dell'economia con tutti i suoi particolari. Uno dei libri di Galbraith più noto, uno degli ultimi libri, si intitola L'economia della truffa, che è tutto un programma, e l'intervista al figlio di Galbraith, il figlio nato nel 52, che è anch'egli un economista, spiega Pubblico, e dice: senza una svolta vera il contagio si allargherà, le banche speculano. E Galbraith sollecita appunto in una delle ultime domande, la leggiamo la risposta: cosa vuol dire essere progressisti, chiede l'intervistatore, che è Marco Berlinguer di Pubblico. La volontà e la finalità del Pubblico sono state dominate dagli interessi finanziari, questa è la mia visione. Ci sono altri problemi, la pubblica amministrazione è corrotta e inefficiente, è vero, ma questa è per me la questione centrale. Non si può lasciare che questi interessi dominino lo spazio pubblico. Quindi gli interessi finanziari, è questa l'accusa di James Galbraith, un po' in linea con quanto pensava suo padre, suo padre appunto, che ha messo in luce soprattutto negli ultimi anni come l'economia finanziaria, ed era stato un profeta sicuramente attento, un profeta attento, come l'economia finanziaria avrebbe potuto mettere in ginocchio anche l'economia reale, come purtroppo è avvenuto negli ultimi anni. Però sull'economia reale, ecco, mi piace sottolineare un'intervista che La Stampa ha a un imprenditore come Brunello Cucinelli, imprenditore, ha tra l'altro ricevuto alcuni anni fa il premio di imprenditore dell'anno. I nuovi mercati sognano l'Italia, per questo abbiamo un futuro d'oro. Il re del cash è stato l'unico a quotarsi la borsa di Milano durante l'anno, sarà ancora dura, ma a lungo termine il meglio per il nostro paese deve arrivare. Brunello Cucinelli è un imprenditore, vive e ha l'azienda Solomeo, un borgo medievale nei pressi di Perugia, un borgo che ha ristrutturato, ed è un'azienda in cui l'obiettivo di fondo è quello di realizzare un'azienda a misura d'uomo, in cui vengono valorizzati i rapporti umani, viene valorizzata la persona, la capacità della persona e le proprie necessità. E uno di questi appunto capitoli di questa intervista realizzata da Luca Ubaldeschi per La Stampa si intitola proprio Umanesimo, e Cucinelli spiega: non credo che ci sia contraddizione tra parlare di morale ed etica nel lavoro e prodotti venduti a 1.000 euro. Vorrei che mi dicessero che i nostri prodotti sono costosi, sì, ma non cari. Se sono costosi si riconosce l'opera di chi li ha lavorati, se sono cari allora qualcuno ne ha approfittato. Vorrei che chi compra i nostri articoli Ascoli sapesse che cerchiamo di fare un profitto sano, garbato, senza cercare di recar danni a nessuno. Sono convinto che stia nascendo una nuova forma di capitalismo contemporaneo che io chiamo umanistico, spiega Brunello Cucinelli, in cui le persone che lavorano con me sanno tutto di me, sanno come la penso e dove vado in vacanza, perché l'unico modo per essere credibili oggi è di essere veri. Ripeto spesso che mi sento custode della mia azienda, con l'impegno di farla crescere e donarla a chi verrà dopo. È un principio che ho imparato da Marco Aurelio: vivi come se fosse l'ultimo giorno, progetta come se avessi davanti l'eternità. E Brunello Cucinelli conclude parlando di politica: sono affascinato dalla politica, la rispetto, discuto, parlo di politica anche con i miei dipendenti, ma no, non mi candido a nulla. Ricorda Socrate, c'era un poeta capace che voleva fare il politico e alla fine non riuscì a fare bene il politico e neppure più il poeta. Ecco, io faccio solo l'industriale artigiano. Sono di formazione socialista, forse più correttamente direi socialdemocratica. Di recente ho visto una bella politica, un'esperienza delle primarie del PD. Renzi ha restituito alla politica sogno e sgarbo, tranne che per quell'espressione rottamare sarebbe servito un termine meno duro. Lo dico però che avrei votato anche alle primarie del PDL se lo avessero fatte. Ecco, questa è la testimonianza di Brunello Cucinelli, un imprenditore che è stato appunto, come ricorda la stampa, l'unico a quotarsi in borsa quest'anno, questo 2012, ormai sto pensando come se già fossimo del 2013, l'unico a quotarsi in borsa del 2012 con un atto sicuramente di coraggio, ma con un'azienda che ha saputo crescere e continua a crescere, un'azienda di lusso, ma che bada attentamente alle persone che vi lavorano. Un accenno a un articolo della stampa dedicato alle crociere. Le crociere adesso si fanno in treno a bordo dei vagoni del mito, un modo nuovo e antico di viaggiare sulle linee dei 5 continenti, e si parla appunto dell'Orient Express, del Africa, del California Zephyr. L'alta velocità ferroviaria, scrive Vincenzo Zaccagnino sulla stampa, dilaga del mondo e genera un sentimento di nostalgia per il tempo in cui sulle lunghe distanze dominava il wagon lit. Nasce da qui il diffondersi di quelli che vengono chiamati cruise train, i treni da crociera che alla velocità del passato attraversano i continenti e offrono un servizio da grand hotel. È quello che è già successo in mare quando scomparsi i transatlantici di linea si sono diffuse le navi da crociera. Ogni continente ha il suo treno da mito, secondo le guide turistiche Lonely Planet, il più lussuoso corre sui binari africani. È il Pride of Africa, che ha come capolinea Cape Town, da cui parte per fantastici viaggi. È questo il consiglio, il richiamo della stampa per chi vuole fare un viaggio di lusso, ma proprio nella pagina opposta la stampa ci ricorda anche un avvenimento che si svolgerà questa sera al Pala Olimpico, che diventa un mega ristorante di lusso, e spiega appunto che è un mega ristorante di lusso, ma per persone che non possono permetterselo. E l'arcivescovo di Torino, Monsignor Nosiglia, parla di una città spaccata in due, divisa da chi è travolto dalla crisi e chi va avanti senza guardare chi affoga. Stasera dalle 18 le due città si toccano e si stringono la mano, e lo fanno in uno dei simboli della nuova Torino, il Palo Olimpico, palazzetto dello sport progettato da Isozaki per i Giochi Olimpici del 2006. L'occasione è una cena intitolata Auguri a Mille, inventata dal Banco Alimentare con la collaborazione del Comune di Torino. I Mille sono gli indigenti, i poveri, invitati da 72 associazioni cittadine, gente che non ce la fa, e tra questi molti poveri, quelli che fine anno tendevano la mano per aiutare gli altri e non se stessi. E parliamo ancora all'Avvenire, che ci ricorda come il parmigiano reggiano sia stato salvato dalla solidarietà. Il formaggio è diventato il simbolo del terremoto e della rinascita. Le immagini delle scalere crollate hanno fatto il giro del mondo e sono diventate l'icona del disastro, ma gli imprenditori non hanno mollato e la produzione è aumentata del 3%. E l'inviato di Avvenire, Paolo Viana, scrive: ora appoggiano su montanti di acciaio zincato saldamente imbullonate al pavimento, ma 7 mesi fa le immagini delle scalere crollate remote hanno fatto il giro del mondo e sono diventate l'icona del terremoto emiliano. In attesa degli aiuti abbiamo ricostruito i magazzini di stagionatura a nostre spese. Tuttavia, la solidarietà che è scattata a livello mondiale dalla diffusione di quelle immagini è stata decisiva nell'incoraggiarci a non mollare. Andrea Nascimbeni è il presidente del casificio sociale Quattro Madonne di Lesignana. In mezzo alla campagna che fuma per il freddo si erge ancora l'edicola votiva che ha dato il nome alla cooperativa. L'avevano costruita per auspicare la protezione della Vergine e Nascimbeni ammette: ogni scala porta 2000 quintali di formaggio. Se al momento della scossa ci fosse stato qualcuno in magazzino, anche qui avremmo avuto una tragedia. "24 Mattino. L'Italia si desta." Bentornati, bentornati a 24 Mattino da Gianfranco Fabi. In questa seconda parte, dopo aver letto i giornali di oggi, nella prima parte cerchiamo di approfondire i temi della politica, i temi che, come abbiamo detto, sono sulle prime pagine dei giornali. I fatti nuovi di oggi sono la discesa in campo di Piero Grasso, il magistrato antimafia che si candida al PD, sono l'appoggio dell'Osservatore Romano alla coalizione di Mario Monti, sono le polemiche sulla presenza televisiva di Silvio Berlusconi, sono poi i temi di fondo, i temi di questa nuova realtà politica imprevista solo un mese fa, con appunto nuove formazioni, un bipolarismo che pare dover lasciare il passo a nuovi equilibri, quali potranno essere. Lo vedremo con questi due appuntamenti che abbiamo. Il primo è con Ernesto Auci. Buongiorno Auci. Buongiorno a tutti. Ernesto Auci, giornalista, è stato anche direttore del Sole 24 Ore, non lo nascondo, abbiamo lavorato molto bene insieme per alcuni anni, adesso ha messo insieme questo gruppo, questo movimento di Indipendenti con l'Italia, per l'Italia, che da subito, direi, fin dalla sua fondazione, alcuni mesi fa, ha scelto di appoggiare esplicitamente, Auci correggimi se sbaglio, di appoggiare esplicitamente la continuazione dell'esperienza di Mario Monti alla presidenza del Consiglio, è così? Sì, di promuovere la continuazione di questa esperienza nella convinzione che Monti può essere ancora molto utile a tutti noi, all'Italia, quindi, e che questo ci può aiutare a uscire dopo gravi sacrifici che abbiamo dovuto fare per pagare sostanzialmente il conto che ci ha lasciato aperto il governo precedente e un po' il sistema politico in generale precedente. Abbiamo dovuto pagare questo conto e ora dobbiamo mettere in atto una serie di misure, alcune delle quali già un po' accennate dal governo Monti, ma che possono farci uscire definitivamente da questa crisi e tornare nell'alveo degli altri paesi normali, diciamo. Ecco, vi ricordo il numero verde 800 24 00 24 per le chiamate degli ascoltatori, per i messaggi SMS il 349 238 6666. Ecco, io vorrei chiedere a Ernesto Auci, che sta seguendo proprio in prima persona poi diciamo così le trattative per realizzare questa lista unica, a che punto è la formazione di questa lista, se ci sarà poi una lista unica. Si parla di una lista unica al Senato, di liste divise per la Camera, date le differenze del sistema elettorale. Quali sono direi le prospettive adesso, 28 dicembre, le 8:20, 8:18, quali sono le prospettive attuali di concretamente di realizzazione di queste ipotesi per la presentazione alle elezioni di formazioni che sostengono il Presidente del Consiglio? Io credo che sicuramente si farà una formazione politica, un'offerta politica nuova che possa dare agli italiani la possibilità di appunto avere una politica diversa da quella del passato, e soprattutto nel senso che bisogna poi riformare il nostro Stato. Il punto cruciale della nostra crisi sta nel fatto che la cattiva politica ha portato a un cattivo Stato molto costoso e nello stesso tempo inefficiente. Quindi bisogna che partiamo da là, dalla riforma della politica, dalla riduzione dei costi della politica e dal funzionamento, dal buon funzionamento dello Stato. E per far questo ci vuole una politica nuova, un'offerta nuova, capace di fare quello che i partiti tradizionali non hanno saputo e voluto fare. faremo due liste o una lista sola. È un po' una tecnica questa, diciamo, dipende, le opinioni sono un po' diverse, dipende da quello che è più conveniente, visto l'attuale sistema elettorale, che non è certo un granché e che, ricordo, i partiti non sono riusciti a modificare, anche se tutti volevano, tutti nel senso i cittadini e il Presidente della Repubblica ha insistito tantissimo per modificarlo, ma non sono riusciti a farlo. Beh, questo è un esempio anche appunto di incapacità della politica, oppure non tanto di incapacità quanto, soprattutto negli ultimi tempi, di volontà esplicita della politica di mantenere il sistema elettorale che favorisce il controllo diretto da parte delle segreterie dei partiti sui candidati e anche sui nominati, perché poi, secondo appunto la classifica, la graduatoria che i partiti, che le segreterie dei partiti scelgono per rappresentare delle liste, si ha poi la nomina da parte degli elettori, che ratificano in pratica solo decisioni prese dai partiti, e questo è il classico sistema elettorale definito Porcellum, non a caso, perché è un sistema elettorale che certamente non lascia ai cittadini una possibilità di scelta se non tra uno schieramento e l'altro, e che è anche una delle cause della disaffezione, sicuramente, che ha la politica, che hanno i cittadini verso la politica. Ecco, io vorrei chiedere a Ernesto Auci, ieri c'è stato un duro, direi, editoriale Corriere della Sera di Alesina e Giavazzi, in cui rimproveravano a Monti di aver fatto un'agenda, questa famosa agenda Monti, in cui c'è ancora troppo Stato, c'è ancora troppo statalismo, in cui si affidano ancora tanti compiti allo Stato. Ecco, invece l'ipotesi di Alesina e Giavazzi è quella di ridurre il peso dello Stato, di ridare spazio anche alla società civile. Non dovrebbe essere questa anche uno degli obiettivi di una formazione, diciamo così, di centro, Ernesto Auci? Ma sì, questa è una, diciamo, una critica un po' ingiusta, perché se poi si guarda bene nell'agenda c'è in vari punti l'idea che bisogna ridurre le tasse, che quindi bisogna fare uno Stato più efficiente, non che non ci deve essere lo Stato, ma non deve fare tutte quelle cose che sta facendo, e peraltro sta facendo male, a cominciare dalla pletora di società pubbliche che sono comunali, regionali e anche statali. E mi pare che in una risposta a una domanda, diciamo, di un giornalista, il presidente Monti l'ha detto molto chiaramente. Quindi bisogna fare, c'è la spending review, cioè bisogna fare una rivisitazione completa dello Stato e capire quello che deve essere fatto e deve essere fatto meglio, quello che può, diciamo, essere ridato ai privati, e in questo senso si possono poi ridurre le tasse e quindi ridare un po' di slancio, ridare un po' di competitività al paese e tornare finalmente a crescere, così come fanno peraltro gli altri paesi europei, non dico non solo la Germania, ma insomma anche la Francia, che pure non è tanto diversa da noi, insomma, non è tanto migliore di noi. Anzi, forse è abbastanza statalista anche la Francia, forse più statalista dell'Italia. Ecco, sotto questo profilo uno dei problemi sicuramente più forti è quello di un federalismo incompiuto e di un federalismo un po' pasticciato, che ha moltiplicato le spese, ha moltiplicato le competenze, in molti casi ha creato certamente delle realtà di efficienza, non solo in Lombardia ma anche in Emilia, non solo in regioni gestite dalla destra ma anche in regioni gestite dalla sinistra. In altri casi, le regioni del sud, ha moltiplicato invece gli sprechi, ha moltiplicato le inefficienze. Ecco, contro questo federalismo pasticciato ci può essere un federalismo costruttivo, Ernesto Auci? Penso proprio di sì, ci deve essere. D'altra parte, insomma, come dicevo, noi abbiamo Berlusconi, Tremonti e altri che dicono che la crisi in cui siamo precipitati è dovuta a un complotto delle potenze straniere, della Germania, delle grandi banche, eccetera. Ma non è così. La nostra crisi è dovuta principalmente, come dicevo, al fatto che abbiamo costruito uno Stato molto costoso e inefficiente. Lo Stato centrale, sono le regioni, sono le province, sono i comuni. Tutto un sistema gestito da politici o incapaci, oppure che hanno approfittato delle loro posizioni per fare altre cose, non per gestire il bene pubblico, Questo Stato così inefficiente, che è quello che ci porta a fondo, non ce l'ha certo imposto la Merkel o Sarkozy o Hollande, quello ce lo siamo costruiti da soli. Quello è il nostro problema, la nostra palla al piede vera. È da lì che dobbiamo ricominciare a diciamo, cambiare le cose. E quindi, come dice Monti, bisogna fare le riforme, queste sono le riforme principali da cui dobbiamo partire. E purtroppo i partiti esistenti, l'offerta politica esistente a destra come a sinistra, sembrano incapaci di fare queste riforme. Certo, sono riforme che richiedono anche una prospettiva sicuramente ambiziosa, perché cambiare lo Stato è facile a dirsi, ma certamente difficile a farsi. Diamo un'occhiata agli sms che sono arrivati al nostro 349-238-6666. Un ascoltatore ci dice: ma non è vero che i partiti non volevano cambiare la legge, il PD voleva cambiarla. È vero, il PD avrebbe voluto cambiare la legge, ma è stata soprattutto la discesa in campo di Berlusconi che ha bloccato qualsiasi riforma elettorale. Questo va sottolineato, e di fatto è la maggioranza dell'attuale Parlamento è ancora, del Parlamento peraltro sciolto, è sicuramente in mano appunto alla destra, al centrodestra, ed è stato il centrodestra a bloccare la riforma della legge elettorale. Questa è storia degli ultimi giorni, non c'è nessun problema ad ammetterlo, anche se indubbiamente poi dopo le proposte sul tappeto erano comunque distanti, la difficoltà di trovare un compromesso, poi è difficile dire se dipenda più dall'una o più dall'altra. Comunque, di fatto la riforma della legge elettorale è stata sicuramente affossata dalla volontà di Berlusconi, con la sua discesa in campo, di andare a votare con l'attuale legge, che fa molto comodo a ai partiti che devono formare le liste. E un'altra sms ci dice: ma Monti in questo periodo non è che abbia cambiato molto dello Stato, si è limitato a aumentare le tasse, e quindi anche queste proposte di riforma rischiano di essere delle proposte un po' nel vento. Una battuta su questo ad Ernesto Auci. Ma questo non è vero, dicevo, è emblematica la questione delle province. Monti, per cambiare, abolire le province ci vuole una riforma costituzionale, quindi è molto, diciamo, complicato, ci vogliono forse tempi un pochino più lunghi e soprattutto una forza politica vera che le faccia. Allora Monti ha cercato di semplificare, di ridurre il numero delle province, e nemmeno quello è stato possibile, perché i partiti attualmente in Parlamento, a cominciare dal PDL, ma anche il PD mi pare che era piuttosto freddino in questo senso, non hanno voluto, e quindi anche quello non è stato possibile farlo. E così, diciamo, è emblematico. E poi ci sono tanti altri piccoli o grandi provvedimenti che riguardano i costi della politica, alcuni sono stati approvati, altri sono stati un po' molto attenuati, ma quindi, insomma, il lavoro con queste forze politiche si è visto che non è possibile. Proprio per questo bisogna dare agli italiani una nuova offerta politica, una nuova possibilità per cambiare questo stato di cose. Ecco, vedremo come sarà possibile, quali potranno essere gli scenari. Che questa forza politica non è una forza politica di gente che vuole fare carriera in politica, ma che viene dalla società civile, e quindi, diciamo, presta alla politica una parte, solo una piccola parte del proprio, diciamo, spazio, del proprio tempo, qualche anno della propria vita. Grazie ad Ernesto Auci, presidente di Indipendenti per l'Italia, uno dei gruppi che formeranno questo nuovo centro, questa nuova lista Monti. E buongiorno a Maurizio Pessato. Buongiorno. Maurizio Pessato è vicepresidente di SWG, una delle maggiori società di sondaggi di opinione. I sondaggi di opinione, di sondaggi politici e elettorali, stanno andando per la maggiore, sono una delle basi su cui si creano anche le strategie elettorali, e vedremo con Pessato come sono cambiati appunto anche gli umori dei cittadini elettori, come stanno cambiando di fronte a questi cambiamenti di offerta politica. E buongiorno a Piero Ignazzi. Piero Ignazzi, docente di politica comparata all'Università di Bologna, osservatore della realtà politica italiana, ha scritto numerosi libri sia sul fronte della destra sia sul fronte della sinistra, per cercare di analizzare i cambiamenti. Ecco, Ignazzi, i cambiamenti forse così tanti in così breve tempo non ce ne sono mai stati nella storia italiana come ce ne sono stati nell'ultimo mese. Beh, anche il 93-94 fu un periodo di grandi cambiamenti in realtà, per cui ogni 20 anni evidentemente abbiamo una scossa al nostro sistema. Siamo ancora in attesa di capire come si configureranno alcune forze politiche alle prossime elezioni e certamente appunto siamo anche in questa fase di fronte a un sistema partitico che cambierà in maniera significativa. Ecco, ma è la domanda forse un po' di fondo, siamo di fronte a quella che può essere un superamento del bipolarismo che ha guidato un po' gli ultimi 20 anni? Qualcuno dice magari con un ritorno al passato, con il vecchio centro-sinistra e con una politica formata appunto su alleanze che non hanno praticamente alternativa, oppure il bipolarismo sopravviverà anche a questa nuova fase politica, Ignazi? È un po' difficile da dire appunto in attesa degli eventi elettorali, però possiamo fare alcune ipotesi. La prima ipotesi, quella confermata da una serie lunga di sondaggi, ormai siamo a solo 2 elezioni dal voto, di solito non ci sono grandi spostamenti, contrariamente a quanto si pensi nelle ultime settimane, prima delle elezioni, dovremmo avere un partito nettamente maggioritario rispetto agli altri, cioè il PD, in una coalizione con altri piccoli partner. Questo, vista l'orrida legge elettorale con cui andremo a votare, vale a dire il Porcellum consente a chi arriva primo, indipendentemente da quanti voti ha avuto, di avere la maggioranza assoluta alla Camera. E quindi i dati sono questi, cioè se prendiamo per validi questi sondaggi, noi avremo un partito che sarà maggioritario alla Camera. Non sappiamo se sarà maggioritario al Senato, è probabile, non è sicuro, perché il Senato, il premio di maggioranza varia a seconda, viene assegnato regione per regione, ma potrebbe esserci anche una maggioranza al Senato. Però quello che è quasi certo è che c'è un partito maggioritario alla Camera. Da quello bisogna partire per ragionare. Allora, questo partito potrà avere o no anche la maggioranza al Senato e quindi governare da solo con tutta tranquillità, il che pone non tanto una questione di bipolarismo, ma una questione di un partito centrale o maggioritario e altri partiti minori all'opposizione, un'opposizione più radicale, un'opposizione più contrattuata, morbida o quant'altro, quale può essere quella appunto dei partiti che sono nella galassia montiana, definiamola così per adesso. E questo è lo scenario più probabile, è molto improbabile che ci sia un altro partito, un'altra coalizione che sia maggioritaria. Ecco, questo appunto vorrei fermare un attimo Ignazi e chiedere a Maurizio Pessato se è vero che non ci sono grandi cambiamenti, se nell'ultimo mese, dopo queste novità, in fondo il ritorno in campo di Berlusconi da una parte, la creazione di questa nuova area di centro con la salita in campo di Mario Monti, se questi cambiamenti hanno provocato nell'opinione pubblica, nei cittadini, negli elettori, dei cambiamenti significativi oppure no? Maurizio Pessato. Stavolta qualcosa più del solito può cambiare, proprio almeno relativamente ai sondaggi, tenendo conto che nell'autunno, come tutti sanno, c'era oltre il 40% di persone che non rispondevano, non dichiaravano la loro intenzione di voto in varie forme, dichiarandosi indecisi o non rispondendo proprio, oltre alla cosiddetta autoselezione, persone che non accettavano l'intervista. Quindi definizione delle posizioni di Berlusconi e di Monti, qualcosa può muovere a gennaio, ecco, chiarite queste cose, però certo il solco grosso è tracciato. In questo senso, in qualche misura, noi vediamo che il bipolarismo tutto sommato è ben accetto all'opinione pubblica, è abbastanza facile da leggere, ci sono grandi aree, non ci sono nelle quali ci si ritrova, certo con molti partiti, e con la novità è proprio che si inserisce una situazione che sta riconfigurando una parte dello schieramento italiano, e questo vediamo poi come va a concludere. Ecco, ma per quanto si può capire, Maurizio Pessato, ricordo vicepresidente di SVG, SWG, società di sondaggi, per quanto si può capire, ecco, questi spostamenti riguardano più le persone indecise o quelle che non sarebbero andate a votare, coloro che si erano appunto si dichiaravano stanche della politica, oppure ci sono degli spostamenti anche, non dico dalla destra alla sinistra, dalla sinistra alla destra, ma dalla sinistra al centro e dalla destra al centro. Pensato. Sì, l'impressione è che siano piccoli questi spostamenti. L'elettorato nel tempo non fa grandi spostamenti, saranno piccoli anche perché uno schieramento, quello che viene chiamato Italia Bene Comune, si è presentato, esiste, ha una sua forma e sta facendo le primarie e quindi ha una sua capacità probabilmente di tenuta. Dall'altra parte Berlusconi credo che cercherà in tutti i modi di mantenere una buona parte del suo elettorato, quindi la figura nuova che nasce ha anche poco tempo per qualificarsi al di là della figura di Monti e di alcuni apprezzamenti che vengono anche da istituzioni forti, abbiamo sentito la Chiesa ad esempio. Certo, quindi ecco, proprio sui sondaggi c'è un interessante sms che vi voglio leggere e chiedo a Maurizio Pessato di rispondere. Ho 65 anni e nessuno mi ha mai intervistato, ma come funzionano questi sondaggi? Beh, funzionano a campione e vengono, di solito noi usiamo 140, comuni campione, 150 seconda, quindi è una parte del paese che viene toccato ovviamente, quindi può capitare che qualcuno non sia mai toccato, ecco, probabilmente questo signore avrà ricevuto forse qualche telefonata delle telecomunicazioni o di altre situazioni, ecco, forse non sondaggi, però può capitare, certo, anche se sembra strano data la mole, resta però che non sono poi così tanti, anche rispetto ad altri paesi l'uso del sondaggio politico in Italia non è che sia superiore a quello di altri paesi europei o gli stessi Stati Uniti. Ecco, quindi ecco, diciamo l'industria dei sondaggi, che peraltro è un'industria che comprende anche varie società che sono un po' in concorrenza anche tra di loro, però diciamo ci sono stati dei casi, Pessato, in cui l'avete indovinata, possiamo dire così, anche se indovinare è la parola sbagliata perché il sondaggio è una cosa scientifica, quindi però avete certamente azzeccato valutando globalmente appunto il sondaggio che avete fatto, ma ci sono stati anche casi in cui avete sbagliato previsioni, avete sbagliato, cioè il sondaggio dava dei risultati diversi da quanto poi l'opinione pubblica si è espressa nelle elezioni. Sì, alcuni casi ci sono stati ovviamente, essendo lavorando con probabilità e con approssimazione alla realtà, da un lato c'è un margine di errore che lo strumento comunque ha e che però non viene concesso in politica, no? Nel senso che un errore del, non so, l'1-2% sono errori del tutto, io oserei definire naturali, però in politica dire che uno a 35 e poi a 33 apriti cielo, insomma, no? Ecco, quindi da un lato c'è una, chiamiamola imprecisione, che è figlia dello strumento e sarebbe giusto anche noi stessi che spingessimo più sul fatto che l'imprecisione esiste. Dall'altro intanto ci sono degli errori perché le stesse leggi della statistica li prevedono e comunque ci sono, perché si può sbagliare anche l'impostazione, si può sbagliare un ragionamento, si può sbagliare una valutazione, un campionamento, un questionario, domande mal poste, quindi comunque degli errori, e poi ci sono delle situazioni molto nuove che rendono spesso difficile, come può essere anche quella che stiamo vivendo. Anche perché il sondaggio molto spesso chiede lo schieramento, chiede la persona, però per chi votano gli italiani? Votano per gli schieramenti, votano per le persone, votano per i programmi? Piero Ignazi? Beh, principalmente votano per una identità pregressa, cioè votano secondo una tradizione antica che hanno stabilito a un certo momento, si considerano vicini a quell'area politica, vicini a quel leader, sostenitori di quel mondo, diciamo così, e una volta fatta la scelta tendono a confermarla per lungo periodo. Le scelte cambiano soltanto in presenza di nuove offerte politiche, piuttosto travolgenti, diciamo così, molto, pensiamo al fenomeno Grillo, che appunto è una nuova offerta politica molto emotivamente molto forte, colpisce molto le emozioni e credo che appunto mi si consentirà, sarà d'accordo con me il nostro interlocutore, sostenendo che ovviamente si sceglie molto su aspetti emotivi e identificativi e molto poco su aspetti razionali. Questa è la norma del comportamento elettorale. Chi riesce quindi a catturare le emozioni su alcuni aspetti e a consolidarle nel tempo si assicura un bacino elettorale di lungo periodo. Nella nostra esperienza italiana degli ultimi 20 anni i passaggi tra centrodestra e centrosinistra sono stati pochissimi, nel senso che l'Italia è stata divisa a metà come una mela a partire dalla metà degli anni 90 e successivamente sono stati molti pochi cambiamenti. Come dicevamo all'inizio, siamo a una fase, dopo 20 anni, di nuova trasformazione del sistema elettorale, del sistema partitico, e quindi in questa fase certamente ci saranno degli spostamenti che precedentemente non erano avvenuti, proprio perché alcune forze politiche stanno collassando, altre sono emerse dal nulla con una capacità attrattiva forte, e quindi in questo caso, contrariamente alle legislature precedenti, vedremo certamente dei passaggi di fronte. Certamente. E passaggi di fronte dobbiamo sempre tenere presente anche quel mondo un po' muto che è quello appunto dell'astensione, del non voto. Indubbiamente. Ecco, tra l'altro, questi ultimi giorni con questa scelta di Monti hanno avuto anche si è verificato anche un po' un passaggio in secondo piano del fenomeno Grillo, che comunque resta un fenomeno politico ed è un fenomeno nuovo anche questo nelle sue dimensioni. Sentiamo Costantino da Caserta. Buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Niente, volevo dire che ho sentito prima l'intervento di Ernesto Auci. Ernesto Auci, e niente, volevo dire che il presidente Monti non ha avuto remore nel porre la fiducia, nel colpire il ceto medio, facendolo impoverire di colpo, e si propone per impoverirlo ancora con le nuove tasse che imporrebbe nei prossimi 5 anni. A lui avrebbe detto: io sono un padre di famiglia, ho figlio, moglie, e per ottenere dei risultati eccellenti in famiglia devo dare io per prima il buon esempio, e quindi avrebbe dovuto porre una fiducia proprio all'inizio del suo mandato nell'abolire le province, nel ridurre il numero dei parlamentari, nel ridurre gli stipendi ai grandi commis di Stato, buonuscite, pensioni e cose varie. In questa maniera dopo si sarebbe dovuto porre al popolo e sarebbe stato bene accetto, ben appoggiato, e tutti quanti saremmo più contenti. Grazie, poi, grazie mille. Grazie per questo intervento, Costantino. Indubbiamente era una scelta possibile, anche se direi un po' pericolosa, perché un po' la divisione di compiti all'inizio dell'esperienza di Monti è stata quella che Monti doveva intervenire rapidamente sul fronte dell'economia, e i partiti che comunque a cui continua a aspettare l'ultima parola all'interno del Parlamento dovevano intervenire con le riforme politiche, la legge elettorale, la riduzione dei numeri parlamentari, la riduzione dei costi della politica. Questo era un po' lo schema che si era posto all'inizio dell'esperienza di Monti. Poi dopo ovviamente è legittimo criticare, sono pienamente legittime le critiche all'operato di Monti, soprattutto sul fronte che è stato fatto molto come pressione fiscale, è stato fatto molto poco, e forse si poteva fare di più sul fronte dei costi della politica, sul fronte della razionalizzazione, ma appunto anche qui si trattava di fare i conti con il Parlamento. Indubbiamente l'esperienza Monti ha avuto appunto delle difficoltà anche di assetto istituzionale. Qui mi rivolgo a Piero Ignazi. Indubbiamente è forse facile dire quello che si poteva fare e non poteva fare, però è stata un'esperienza che si è svolta entro binari, direi, che lo stesso Monti ha sottolineato, l'anomalia di questa maggioranza ampia, che era comunque una maggioranza che andava controllata e che non poteva essere troppo forzata. Piero Ignazi. Ovviamente vi era una maggioranza molto anomala e irripetibile. Per un po' di tempo è stato detto che si poteva riproporre nel dopo elezioni, a me sembravano ragionamenti fuori veramente dal mondo. Questo ovviamente era un limite ma anche una forza, e si è visto all'inizio. Credo che il problema come spesso in molte vicende sono un po' le battute iniziali quelle che contano. Il governo Monti è partito con un progetto molto ambizioso di riforme su tutta una serie di versanti e proponendo subito una riforma molto pesante, con una però un po' troppa improvvisazione, come si è vista la riforma delle pensioni, che in realtà ci costerà 10 miliardi per quanto riguarda il recupero degli esodati. E in quella fase però c'era una grande disponibilità, una grande apertura, anche un po' uno smarrimento, soprattutto a destra, delle forze politiche, e quindi in quel momento probabilmente il governo avrebbe dovuto affrontare con molta rapidità, mettere subito in cantiere un'altra serie di riforme. Forse non ha avuto la capacità, l'esperienza, il tempo per fare questo, e quindi nel corso dell'anno si è andato un po' slabbrando l'iniziativa, non ha avuto questa capacità riformatrice iniziale che sembrava, di cui sembrava disporre. Credo che uno dei fallimenti più clamorosi sia proprio quello legato a quello che diceva l'ascoltatore per quanto riguarda le province, una cosa che difficilmente non erano molto difendibili, non c'era nessuno che a parte la Lega che le agitasse come un vero vessillo e su cui si poteva intervenire molto più efficacemente. Per fortuna il progetto non è arrivato in porto, perché la soluzione è una soluzione di compromesso assolutamente inefficace, le province vanno abolite tutte, come del resto ricordava in un saggio proprio Gianfranco Fabi. Grazie per la citazione. Indubbiamente quello delle province è un tema che mi è caro, perché da qualche anno già su Sole 24 Ore avevo chiesto appunto di avere il coraggio di abolire le province proprio come istituzioni un po' pletoriche all'interno di uno Stato che si stava appunto delineando, fondato più sui comuni con la loro forza e più sulle regioni con la loro capacità di gestire appunto un territorio ampio. Però ecco, su questo punto do pienamente ragione a Ignazi, la soluzione di accorpare alcune province creava più problemi di quanti ne risolveva. Devo dire che dagli messaggi SMS il credito di Monti non è molto alto, sono molto più le critiche verso quanto Monti ha fatto sulle tasse e sul gravare sui cittadini, che non quanto ha fatto di positivo per ridare credibilità al paese, ridare stabilità al sistema finanziario. Vi do appunto atto di queste critiche, che sono molto condivise dagli ascoltatori. C'è una domanda esplicita per Maurizio Pessato, vicepresidente di SWG, ed è su se i sondaggi delle ultime settimane delineano una diminuzione degli indecisi e dei non votanti. Sì, qualcosa c'è stato, perché appunto si sono manifestate delle nuove situazioni come Berlusconi. Come lo stesso Monti, che si capiva che ormai si sarebbe comunque mosso in qualche direzione, quindi qualcosa c'è stato. Ecco, adesso vedremo la ripresa, poi dopo attorno al 20 dicembre non era più il caso di fare rilevazioni, quindi vedremo poi a gennaio, e probabilmente anche la scelta dei candidati porterà poi ancora qualcosa. L'impressione nostra è che avremo forse un calo rispetto all'affluenza del 2008, però non un calo molto pesante, ci sarà probabilmente un calo leggero, perché poi alla fine la battaglia politica spinge gli italiani, che sono fortemente, come diceva anche Ignazi, politicizzati e hanno delle scelte di campo, in larga misura fanno delle scelte di campo, poi andranno poi a votare. Ecco, anche se si voterà a febbraio, è una forse una novità, non si è probabilmente mai votato a febbraio, i mesi del no. Voto in Italia sono sempre stati tra aprile e maggio, quindi... Sì, ma è difficile che le condizioni meteorologiche così determinino veramente astensione o partecipazione, in realtà le ragioni sono sempre politiche, legate all'offerta e così via, non c'è mai stato veramente, se uno vuole votare va a votare anche con la pioggia, insomma, almeno in Italia. E restando nella meteorologia, un ascoltatore nostro SMS ci dice, ma io ho iniziato parlando di nebbia, rifacendomi un po' le previsioni sul traffico, cioè non è, nella politica italiana non c'è nebbia, c'è tanto smog. Piero Ignazi, per concludere, però possiamo dire che forse qualcosa sta emergendo anche come chiarezza di offerta politica, poi ognuno può e deve fare le proprie scelte, Piero Ignazi. Ma sì, secondo me in realtà nonostante i grandi cambiamenti che sono in corso, ormai da un anno, insomma, che stiamo vedendo adesso un po' solidificarsi, sì, ci sono ormai delle posizioni nette, abbiamo una posizione su alcuni temi forti, importanti, che stanno diventando sempre più presenti nella nostra politica, per esempio sulla questione dell'Europa. Cioè abbiamo una, ormai quello che era il governo Berlusconi, e quindi due alleati, Lega e PDL, su posizioni fortemente anti-europee, con critiche molto, molto forti, che vanno dalla critica di fondo proprio all'Unione Europea, a critiche su alcuni provvedimenti che sono stati legittimi ovviamente, ma che mettono un po' in difficoltà, in crisi proprio la nostra presenza nelle sedi, certo, comunitarie, a cui si affianca un'altra posizione fortemente critica nei confronti dell'Europa, che è quella rappresentata da Grillo, che ha molte cose che sono in realtà della classica sinistra ambientalista. Ecco, europea. Dobbiamo concludere, Ignazio, dobbiamo concludere, quindi possiamo dire che comunque c'è una chiarezza di scelte di fondo. Sì. Grazie mille, grazie a Piero Ignazi, docente di politica comparata all'Università di Bologna, grazie a Maurizio Pessato, vicepresidente dell'SWG, la società di sondaggi, grazie a quanti ci hanno seguito e a Peter Bascapè in regia. L'appuntamento è per l'anno prossimo, chissà quando.